Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, gentili ascoltatori, sono le 18.35 in questo momento. I numeri di telefono per chiamarci in diretta fino alle 20.45 i seguenti: il numero verdi per le vostre telefonate in diretta 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666, la mail lazanzara@radio24.it, via i telegiornali TG2. Veltroni al Partito Democratico, o innovazione o fallimento, fuori disonesti, ma non accettiamo da Berlusconi lezioni di moralità, replica il Premier, con questa sinistra non si può dialogare. Continuano gli interrogatori sullo scandalo degli appalti a Napoli, sentiti tre assessori agli arresti domiciliari, respingono le accuse e negano che ci fosse un sistema Romeo. Rapporto annuale della Guardia di Finanza nel 2008, i redditi occultati al fisco sono stati di oltre 27 miliardi, scovati più di 6.400 evasori totali. Partenze per il weekend prima del Natale, in movimento circa 6 milioni di italiani, troveranno bel tempo un po' ovunque, molta la neve sulle montagne, attenzione al rischio valanghe. Andiamo a sentire anche come riassume la giornata Studio Aperto da Italia 1. Riunione fiume del PD che affronta la crisi e i contrasti interni dopo la bufera giudiziaria. Veltroni, fuori disonesti o innovazione o fallimento. D'Alema, il partito è un'amalgama mal riuscita. Il sindaco di Torino Chiamparino lascia il governo ombra. Il leader anticipa la replica per evitare di parlare a una sala mezza vuota. Nuovi guai per Giorgio Chinaglia, lo accusano di aver tentato di comprare la Lazio sfruttando i soldi della Camorra con un'operazione di riciclaggio mascherata. Dalla Cassazione oggi la decisione di arrestarlo, ma il bomber è irreperibile. Crolla un altro soffitto in una scuola italiana, questa volta è toccato a un istituto di Biella. I calcinacci hanno ferito leggermente quattro studenti, erano in corso dei lavori, la testimonianza di un ragazzo. Maltempo, breve tregua nel weekend, ma resta l'emergenza neve in Piemonte e Val d'Aosta. A Courmayeur tutto esaurito, altissimo il pericolo di valanghe, molti comuni ancora isolati e per Natale previste nevicate e tanto freddo. Li vendevano a 2 euro al chilo in mercatini ambulanti, ma quei prosciutti erano delle bombe biologiche. Bene, i titoli di Studio Aperto di questa sera sono particolarmente stuzzicanti. Il secondo titolo era su Giorgio Chinaglia. Va bene, lasciamo perdere i titoli di Studio Aperto. Il numero di telefono per chiamarci è sempre lo stesso, 800 24 00 24. E insomma, se Veltroni doveva risolvere con questa direzione i nodi politici di questa situazione di crisi del Partito Democratico, a mio parere non li ha sciolti nemmeno uno. Non c'è spazio per i disonesti, dice, ma se la piglia poi con Berlusconi. I magistrati devono andare avanti, ma con responsabilità, che non si capisce cosa vuol dire. Di Pietro, siamo diversi, siamo due opposizioni diverse, ma alleanze a livello locale. Insomma, l'alleanza con Di Pietro, cosa bisogna fare sulla giustizia, se bisogna fare qualcosa, il rapporto con la maggioranza, restano tutte cose un po' appese. Non c'è spazio per i disonesti, iniziamo da questo. Per i disonesti non c'è posto nel Partito Democratico. Verremmo meno alla nostra responsabilità se pensassimo e ci comportassimo diversamente. Ma insomma, dire che non c'è spazio per i disonesti è come dire che l'acqua bagna o che fate voi, insomma, delle cose piuttosto ovvie. Va bene, in ogni caso, invece di fare una forte autocritica o di fare delle scelte politiche ben precise, questa è la mia opinione naturalmente, c'è un attacco a Berlusconi a tutto campo. Non c'è, come dire, il primo attacco è di questo tipo: non possiamo ricevere lezioni morali da Berlusconi. Devo dire che in questi giorni Berlusconi sulla vicenda della crisi del Partito Democratico non è che si sia espresso in maniera particolarmente dura nei confronti di Veltroni. Ma tant'è, si prende questo da Veltroni. Berlusconi ha definito il PDL un baluardo della democrazia. Ma come può difendere e promuovere la democrazia un partito che non la pratica e non la vive al suo interno? Non è un caso se un giorno sì e un giorno no gli scappa detto qualcosa che poi deve correggere, smussare, smentire, ma che in effetti tradisce il suo vero pensiero. Come sarebbe bello se la Repubblica funzionasse come il PDL, un uomo solo al comando, nelle sue mani tutti i poteri e tutto il potere politico, economico, mediatico, niente contropoteri, niente parlamenti con le loro lentezze, niente opposizioni con le loro critiche depressive, niente magistratura indipendente, niente libera stampa e niente giornalisti scomodi. Questo è quello che Veltroni pensa del PDL di Berlusconi, che vuole vivere senza stampa, insomma, in un regime dittatoriale. Invece sentiamolo, come dicevamo prima, sulla lezione morale che non si può prendere da Berlusconi. Sentiamo. La qualità della politica non riguarda certo una parte sola. Noi la avvertiamo in modo particolarmente bruciante ed è bello che sia così. Perché la nostra cultura, i nostri valori, il nostro modo di essere, quello di tutto il nostro popolo, mette la legalità e l'onestà personale al primo posto, come assoluta precondizione del fare politica. Per altri non è certo così e tutto si può accettare, sinceramente, tranne le lezioni che vengono da chi tra le sue file è indagati per reati connessi alla mafia e alla camorra. Da chi, mi riferisco al Presidente del Consiglio e voglio dirlo senza alcuna concessione alla demagogia, ma per semplice verità dei fatti, ha scelto di fronteggiare le sue vicende giudiziarie varando una serie infinita di leggi ad persona. Ditemi voi che differenza c'è di toni tra Veltroni e Di Pietro. Usano più o meno lo stesso canovaccio nei confronti del Presidente del Consiglio, nei confronti di Berlusconi, e dunque non si capisce perché poi a livello nazionale, dice Veltroni, non ci dovrebbe essere più l'alleanza. In ogni caso Di Pietro torna a parlare di un'opposizione che deve essere unita contro il modello piduista di Berlusconi. Ancora Di Pietro. Veltroni parla di due opposizioni diverse, così condannandosi alla sconfitta eterna. Io voglio fare un'alleanza unica con il Partito Democratico e non solo col Partito Democratico, con tutte quelle forze politiche e quelle realtà culturali, professionali, della società civile del Paese, per governare in alternativa e in altro modo il Paese rispetto al modello piduista di Berlusconi. Il modello piduista di Berlusconi. 800 24 00 24, una rosetta del giorno ce la dobbiamo beccare. Rosa, Russo, Iervolino, o cambio o me ne vado, torno a fare le 100.000 cose di cui mi occupo extra politica. Certo, il più presto possibile, nell'interesse del sindaco e della città. Se questo non fosse possibile? E se questo non fosse possibile, il sindaco se ne va. Allegramente, ringraziando e rimettendosi a fare le 3.800 cose che ha sempre fatto. E questa è la Iervolino del giorno, il pensiero del giorno di Rosetta Iervolino. Il generale D'Arrigo e il comandante della Guardia di Finanza oggi ha presentato dei dati sulla lotta all'evasione fiscale, con 6.000 nuovi evasori totali scoperti. Ma una domanda: come si può combattere comunque una piaga che rimane una delle più grandi piaghe italiane, quella dell'evasione fiscale? Sentite come risponde D'Arrigo. Comandante, come mai in Italia c'è ancora tanta gente che non paga le tasse, ritiene di poterla far franca in qualche modo? È un fatto di cultura che probabilmente risulta agevolato dalla complessità delle nostre regole sostanzialmente. Le procedure di contenzioso che si innestano sulle verifiche fiscali a volte sono talmente complesse e talmente lunghe che quasi suggeriscono all'evasore di poter sfruttare questa lunghezza proprio per non dichiarare, fidando sul fatto che le lunghezze procedurali alla fine tutto sommato gli daranno ragione. 800 24 00 24. Torniamo alla vicenda delle intercettazioni telefoniche, perché Berlusconi ha annunciato una stretta, vediamo poi come si tradurrà a livello legislativo, quali saranno i passaggi. Da qualche agenzia uscita oggi sembra che Berlusconi abbia convinto Bossi su un innalzamento dai 10 ai 15 anni. Sentiamo lo stesso Berlusconi. Incidiamo sia sulle indagini sia sulle intercettazioni telefoniche, che dovrebbero essere consentite soltanto per reati gravissimi, per il terrorismo internazionale, per le associazioni criminali di stampo mafioso e per i delitti che hanno nel codice delle pene oltre i 15 anni, eccetera. Questo Berlusconi, da Anno Zero di ieri sera, sempre a proposito delle intercettazioni, un confronto, scontro tra Di Pietro e Ghedini proprio sul limite dei 10-15 anni, cosa entra dentro, cosa esce fuori, tutte cose molto teoriche, bisognerà vedere, sentiamo. È vero o non è vero che quest'oggi Berlusconi ha dichiarato che le intercettazioni andrebbero limitate solo a quelli che hanno 15 anni, solo per reati oltre 15 anni di carcere? Ma allora dovete sapere che l'inchiesta di Pescara, l'inchiesta dell'Aquila, l'inchiesta di Wainotte, di Napoli, Basilicata, tutte le inchieste sulla pubblica amministrazione di cui si discute, non solo non potevamo sapere più l'intercettazione, ma non si potevano proprio fare. Ma non è ancora tanto per notizia, ma ancora un po' di tanto per notizia, prendo per notizia. Ma lei notizie sbagliate. Ma perché non fa parlare questo? Ogni volta viene preso in castagna. Ma che incredibile stagna. Lei ogni volta continua a parlare dicendo cose sbagliate. Per forza, siamo mica un picnic. Ma poi mi contesti. Ma no, te lo continuo a contesto subito. Ma fammi dire. E allora, siccome anche Cascina ha detto, che quel provvedimento non si capisce, e sulla rete internet invito tutti i cittadini a leggersi questi famosi 1400 pagine, e siccome l'ha capita pure mia sorella che ha fatto la quinta elementare, sono convinto che lo capiscono tutti quanti. Vabbè, insomma, da questo estratto di Anno Zero di ieri sera abbiamo capito perché Di Pietro viene invitato ormai ovunque, nonostante lui poi gridi a regime in tutte le trasmissioni televisive, perché questo modo di fare, questo modo di parlare, al di là del merito, fa certamente audience. Stefano Cappellini da Riformista, ciao Stefano, buonasera. Allora, cosa si può dire sulla questione delle intercettazioni? Perché io di principio, per esempio, sono abbastanza contrario a limitarle. Veltroni disse una volta, bisognerebbe non limitarle, però impedire poi che escano fuori le pubblicazioni, eccetera, eccetera. Però apprendiamo diverse cose da queste nuove vicende che sono venute sulla, insomma, quelle di attualità di questi giorni. La prima cosa è che l'inchiesta, per esempio, più grossa, quella di Napoli, viene fuori da una situazione piuttosto perversa, cioè dire c'è una indagine in un piccolo paesino della Campania che viene portata avanti anche con le intercettazioni telefoniche, sì. E nello stesso tempo, a un certo punto, siccome viene intercettato Romeo, queste intercettazioni telefoniche passano a Napoli, dove sulla base di queste intercettazioni di Romeo, comunque sulla base di una segnalazione nata da intercettazioni disposte per un altro procedimento, dunque si parte con un'indagine su Romeo. Questo al di là delle responsabilità di Romeo, dei politici, c'è qualcosa da cambiare da questo punto di vista? Ma io non ho dubbi che la risposta sia sì. Io penso che delle intercettazioni si faccia un uso ormai troppo spregiudicato nelle indagini, non solo perché c'è, come ricordavi poc'anzi tu, una spregiudicatezza nell'usare diciamo l'ascolto telefonico come una sorta di rete a strascico, nella speranza che insomma si arrivi poi a individuare una qualche ipotesi di reato e passando allegramente magari i fascicoli da una procura all'altra. Con una leggerezza secondo me incredibile, perché bisognerebbe indagare avendo chiaro, insomma, chi è l'indagato, il capo di imputazione, e non appunto mettersi all'ascolto e così intercettare 24 ore su 24 dei cittadini nella speranza o nella convinzione, a seconda dei casi, che qualcosa prima o poi uscirà. Questo è un primo punto, e poi c'è un altro punto che riguarda il fatto che secondo me forse persino più grave, che ormai molte indagini sono le intercettazioni, sì. Cioè, le intercettazioni non sono uno strumento a supporto, ma l'impressione netta, io direi qualcosa in più che l'impressione in alcuni casi, è che le intercettazioni siano diventate a tutto tondo l'indagine, cioè che non ci sia altra forma di indagine che l'ascolto telefonico, la trascrizione delle conversazioni e da lì l'individuazione di eventuali reati. Io penso che sia abbastanza discutibile, per usare un eufemismo, l'idea di poter arrestare qualcuno o mandarlo a processo solamente sulla base di un ascolto di alcune telefonate, anche perché molto spesso noi poi leggiamo sui giornali che pubblicano altrettanto allegramente paginate di conversazione, leggiamo delle conversazioni che non sempre sembrano avere rilevanza penale, poi quando tutto finisce sui giornali sembra sempre chissà di svelare chissà quali affari turpi, ma molto spesso poi a rileggere a mente fredda alcune conversazioni ci si rende conto che insomma non c'è, penalmente non appare nulla di rilevante, poi magari c'è anche, io non voglio assolutamente sostenere che gli imputati di Napoli siano innocenti, non lo so, insomma lo deciderà la magistratura, però dico che a leggere alcune conversazioni io personalmente non riesco a capire dove sia la rilevanza penale. E invece sono intercettazioni che colpiscono fortemente l'opinione pubblica, soprattutto alcune frasi. Allora, siamo con Stefano Cappellini del Riformista per parlare di intercettazioni. C'è una frase che è diventata ormai un tormentone di questa inchiesta su Napoli: siamo un sodalizio, ed è una frase detta da Bocchino a Romeo. Uno se legge queste intercettazioni, siamo un sodalizio, tra l'altro è stata ben evidenziata dai PM di Napoli, pensa alle cose più terrificanti, alle cose più orrende che ci possono essere, cioè siccome c'è un'accusa molto grave, un sodalizio diciamo criminale, no? Di per sé non è che questa frase configuri un reato. Sì, no, appunto, è esattamente ciò che si diceva prima. A leggere certi virgolettati trascritti dalle conversazioni sui giornali, alle volte ci si sorprende a pensare appunto di essere stati iniziati al disvelamento di chissà quali misteri e affari. Insomma, quella è una frase ovviamente che può essere discutibile, censurabile da un punto di vista dell'etica politica, se vogliamo, perché al limite può dimostrare che che Bocchino aveva rispetto agli affari privati di Romeo un'attenzione persino superiore a quello delle ragioni di partito, sì, certo, o della sua appartenenza al centrodestra, e questo ovviamente è discutibile, ma al limite questa è cosa di cui Bocchino dovrebbe rispondere ai suoi elettori, ai suoi compagni di partito, non a un tribunale. Dopodiché, se c'è altro dietro questa frase, bisognerebbe scoprirlo, magari non con le intercettazioni, ma cercando di portare, credo, qualche elemento di prova un po' più consistente, perché di per sé quella frase, appunto... C'è anche un'altra frase, prima, no? Quella sul grande capo, no? Che in questo momento sta interessando molto i giornali, che sarebbe poi Rutelli, sì, Lusetti... È un'altra frase, cioè non c'è dubbio che è una frase allusiva, anche questa sembra chissà quale aprire le porte di quali misteri, ma anche questa è una frase insomma, del tutto priva di una rilevanza penale, cioè non nessuno può essere inchiodato a una frase del genere da un punto di vista penale, fa il paio appunto con quella su Siamo un sodalizio. Sono queste frasi, ogni volta le intercettazioni, ovviamente frugando tra centinaia di telefonate degli indagati, è chiaro che prima o poi una chicca del genere esce sempre. E infatti in questi anni ciascuna delle inchieste che abbiamo imparato a conoscere bene dalle paginate di trascrizione sui giornali ha offerto una di queste frasi che poi sono diventate il simbolo stesso dell'inchiesta. Ecco, molte di queste frasi oggettivamente sono, magari suscitano molta interesse e curiosità nell'immaginario, ma sono frasi che non possono certo avere alcun valore di prova, e il fatto di spararle sui titoli a nove colonne non è che le trasforma in qualcosa di più consistente. Rimangono delle frasi colorite, ripeto, come dicevo prima, magari censurabili da un punto di vista dell'etica politica, ma certo non delle prove su cui si può costruire un processo in un tribunale. Grazie a Stefano Cappellini del Riformista, grazie di essere stato con noi. 18:53, andiamo agli ascoltatori. Luigi da Napoli, buonasera Luigi. Buonasera a lei, mi scuso per il tono della voce, sono raffreddato. Non c'è problema. Dica. Allora, dottore, io volevo rivendicare orgogliosamente il mio essere giustizialista. Bene. Perché per un uomo qualunque, l'uomo, il famoso uomo qualunque, sì, dove ogni giorno io vivo, io sono di Napoli, dove lo Stato qui a Napoli non ha fatto un passo indietro, è totalmente assente. Quando poi senti trasmissioni come la sua ieri, dove un parlamentare ha praticamente detto che l'Andrangheta è diventata l'Andrangheta per quella che è, grazie ai magistrati, la camorra lo stesso, perché prima vendevano solo le sigarette. Lei si riferisce all'intervento di Iannuzzi, che peraltro non è più parlamentare, ma collabora col ministro Bondi, amministratore dei beni culturali, ma non ha detto questo. Era un ragionamento certamente molto contestabile, ma più complicato. Insomma, ha detto questo. Benissimo. Allora, alla fine volevo andare a calcine, non so dove, in tutta la magistratura. Va bene, dunque? Allora, io dunque, è che se c'è un fumo, qualcosa che può far indagare, se ci sono poi dietro al fumo c'è anche un po' di arrosto, che vadano in galera. Luigi, detta così non significa niente. Se c'è un po' di arrosto, che vada in galera, insomma, è come discutere del Milan, dell'Inter, della Roma, della Lazio. Insomma. Luigi da Milano, passiamo a un altro Luigi, vediamo se va meglio. Luigi da Milano, pronto? Sì, dica. Sì, buonasera. Innanzitutto mi permetta, visto la stagione, di fare gli auguri di Buon Natale a lei, alla redazione e a tutti gli ascoltatori. Benissimo, vada avanti col suo intervento. Ecco, detto questo, io volevo semplicemente dire che sono contentissimo dell'intervento di Veltroni, perché io sono un elettore di centrodestra e fin tanto che Veltroni andrà avanti su questa strada si candiderà a prendere bastonate dalla mattina alla sera, perché guardi, le faccio un esempio, io costruisco apparecchiature elettroniche, se le mie apparecchiature elettroniche non funzionano, io non me la prendo con il mio concorrente e vado a guardare i guai del mio concorrente, vado in laboratorio, cerco di sistemare le mie, mi tiro sulle maniche e farò in modo di avere meno guai degli altri. Sì Luigi, però fare politica non è la stessa cosa, non è simile al suo mestiere, è un'altra cosa, e dunque insieme a un'autocritica che in parte c'è stata in questa direzione, adesso Veltroni sta replicando, bisogna dare un colpo anche all'avversario, altrimenti cosa si fa politica a fare? La Zanzara. Bene, gentili ascoltatori, 19:18 in questo momento, 800-24-00-24 il numero di telefono per chiamarci, 349-238-6666 per i vostri messaggi, l'indirizzo mail a zanzara@radio24.it, TG3. Veltroni al PD, innoviamo o falliremo, non c'è posto per i disonesti. D'Alema da oggi si riparte, serve un partito vero. Berlusconi, dopo le feste in Parlamento la riforma della giustizia, ma con questo PD non si va da nessuna parte. Fini, Villari si dimetta. L'inchiesta di Napoli sugli appalti, giornata di interrogatori di garanzia, gli imputati respingono le accuse, previsti nuovi sviluppi in un'indagine. Industria, a picco ad ottobre il fatturato, gli ordinativi crollano ai livelli più bassi da 7 anni, in America è deciso un maxi aiuto per l'auto. In un liceo a Biella crolla parte dell'intonaco, 4 studenti feriti in modo non grave ed è di nuovo polemica sulla sicurezza nelle scuole. I familiari del giornalista che lanciò le scarpe contro Bush denunciano, torturato in carcere, mistero sulla sua sorte, un giudice conferma. Il GT ragazzi del TG3 al Quirinale, grande festa con gli studenti, Napolitano la Costituzione è giovanissima e i suoi principi vanno imparati da bambini. Messaggi dagli ascoltatori, purtroppo Veltroni, scrive un ascoltatore, non è più credibile, non può dire non c'è spazio per i malfattori nel Partito Democratico e poi votare contro l'autorizzazione all'arresto di Margiotta, che è un deputato, come sapete, della Basilicata, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera. Non è così che si trasmette agli elettori il messaggio che ci si impegnerà seriamente contro la corruzione, scrive questo ascoltatore. Come sapete, la Camera ha votato contro l'arresto di Margiotta perché riteneva, leggendo le carte, la maggioranza della Camera, anzi la stragrande maggioranza della Camera, PD insieme al PDL, contrari solo i deputati dell'Italia dei Valori e 3 astensioni, se non sbaglio, perché la stragrande maggioranza dei deputati, vedendo le carte, ha ritenuto non necessari gli arresti nei confronti di Margiotta. Non mi pare una cosa così scandalosa, poi non mi pare la grande protezione della casta, come gridano moltissimi ascoltatori, come ci scrivono tanti altri ascoltatori attraverso le mail. Andiamo a sentire i titoli di Sky. PD alla resa dei conti, è ora di cambiare o sarà fallimento, dice Veltroni. Dialogo Berlusconi apre e richiude, poi insiste sulla riforma della giustizia. Tangenti in comune, a Napoli interrogati 2 degli assessori sotto accusa. Le bollette si sgonfiano, da gennaio la luce cala del 5% e il gas dell'1%. Il petrolio ora costa $34, negli Stati Uniti maxi prestito per il settore auto. Fisco nel 2008 recuperati quasi 9 miliardi da evasori totalmente sconosciuti. Tagli in finanziaria, Bertolaso pronto a dimettersi. I fondi ci sono, risponde il Premier. Giallo nel torinese, operaio trovato morto in casa col cranio fracassato. Cede l'intonaco del soffitto in una scuola di Biella, 4 feriti lievi. Urna spietata negli ottavi di Champions, tripla sfida tra Italia e Inghilterra. Bene, 19:21, 800 24 0024. Insomma, dalle cose che abbiamo letto in questi giorni sugli scandali a Pescara, a Napoli e prima ancora a Firenze, ancora in Basilicata, ma soprattutto a Napoli, mi è venuto in mente questo film di Francesco Rosi, ricorderete? Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila. Eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria, l'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. E non c'è dubbio che gli appalti pubblici siano il nodo, come vengono gestiti, la trasparenza, siano il nodo del problema. Un aspetto minore, a mio parere, sono invece le intercettazioni, dove pure, come abbiamo sentito prima anche da Stefano Cappellini, bisogna intervenire, certamente ci sono alcune perversioni, ci sono alcune esagerazioni, c'è un numero abnorme di intercettazioni telefoniche. Però, scrive questa mattina sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella, la tentazione che pare serpeggiare qua e là, a destra e a sinistra, è quella di uscirne dando una regolata alla magistratura. Meno inchieste, meno arresti, meno scandali, meno indignazione popolare, meno astensione alle urne. Ma ammesso che qualche giudice abbia esagerato, sarebbe questa la soluzione? Ecco, secondo me la soluzione non è dare una regolata alla magistratura, ma intervenire in un altro modo, intervenire sulla trasparenza nel rapporto tra imprenditori e politici, in questo caso politici locali. Berlusconi invece dice che bisogna intervenire molto, molto fortemente sulla questione delle intercettazioni telefoniche, limitandole in questo modo. Incidiamo sia sulle indagini sia sulle intercettazioni telefoniche, che dovrebbero essere consentite soltanto per reati gravissimi, per il terrorismo internazionale, per le associazioni criminali di stampo mafioso e per i delitti che hanno nel codice delle pene oltre i 15 anni, eccetera. Questo Berlusconi, scontro di Pietro Ghedini ieri ad Anno Zero sulle intercettazioni, sentiamo. Uno studio di estremisti. Ci stiamo scordando. Di Pietro sulle intercettazioni telefoniche, perché non è vero quello che ha detto. Non è vero che sarebbero impedite nelle inchieste quelle fino ad oggi. Sì. Perché no, certo. No, devo sentire Grevi sulle intercettazioni. Allora risponde Grevi. Questa lui, la proposta c'è, è scritta. Casomai verrebbe innalzato il limite da 10 a 15, ma i reati contro la pubblica amministrazione rimangono. È scritta, ma da 10 a 15. Ma pure i sequestri di persone non lo fai. È in commissione di Pietro. Pure i sequestri, professor Grevi. Professor Grevi, per favore, da lei una parola di badasta. Faccia leggere a sua sorella. False. Datemi solo Grevi, l'audio solo. Falso in bilancio. Che forse glielo spiega. No, faccia leggere a sua sorella. Non si può fare l'intercettazione. Bene, 800 24 00 24, anzi male, perché poi in questi dibattiti non si capisce mai nulla. La direzione del Partito Democratico, a mio parere, non ha risolto tutti i nodi politici che ci sono all'interno del Partito Democratico. Tra le proposte che ha fatto Veltroni, anzi forse l'unica proposta concreta che ha fatto Veltroni, è quella di una scuola di politica al Sud. Istituire una scuola di politica nel Mezzogiorno, di formazione politica. Ho chiesto a Saviano di partecipare. Lo scrittore ha subito risposto: d'accordo, ma via i dirigenti collusi. Non si riesce bene a capire cosa significa. Comunque ha detto Saviano: sarò lieto di tenere una lezione alla scuola di formazione del Mezzogiorno, a condizione però che il PD si impegni a portare avanti un doveroso percorso di azzeramento della classe dirigente collusa e compromessa, che ha purtroppo dimostrato di essere inadeguata alla realtà territoriale. Ora bisogna stabilire i criteri quando uno è considerato colluso e compromesso, punto interrogativo, perché altrimenti Saviano non ci va alla scuola di formazione del Partito Democratico. L'ironia di Berlusconi su questa proposta di Veltroni. Evidentemente è una proposta troppo intelligente a cui io non so reagire. Tutto è partito dal fatto che Veltroni alla direzione del PD ha detto, via da questo partito i disonesti, non c'è spazio per i disonesti. Per i disonesti non c'è posto nel Partito Democratico. Verremmo meno alla nostra responsabilità se pensassimo e ci comportassimo diversamente. Poi diciamo la verità, per carità, la riunione, la direzione è stata lunga, Veltroni ha detto tante cose, però se l'è presa con Berlusconi, come se non ci fossero i problemi all'interno del Partito Democratico, è come se Berlusconi in questi frangenti, in queste ore, avesse tenuto un atteggiamento particolarmente duro nei confronti di Veltroni, cosa che bisogna dire non è avvenuto. E dunque Veltroni dice: non possiamo prendere lezioni da Berlusconi. La qualità della politica non riguarda certo una parte sola. Noi la avvertiamo in modo particolarmente bruciante ed è bello che sia così. Perché la nostra cultura, i nostri valori, il nostro modo di essere, quello di tutto il nostro popolo, mette la legalità e l'onestà personale al primo posto, come assoluta precondizione del fare politica. Per altri non è certo così, e tutto si può accettare, sinceramente, tranne le lezioni che vengono da chi tra le sue file è indagati per reati connessi alla mafia e alla camorra. Da chi, mi riferisco al Presidente del Consiglio, e voglio dirlo senza alcuna concessione alla demagogia, ma per semplice verità dei fatti, ha scelto di fronteggiare le sue vicende giudiziarie varando una serie infinita di leggi ad persona. Questo Veltroni che poi dice Berlusconi vuole un modello dell'Italia che è sul modello del suo partito, dove non c'è democrazia, dove non si vuole la libera stampa, insomma è la stessa cosa che dice Di Pietro, diciamo la verità. Berlusconi ha definito il PDL un baluardo della democrazia, ma come può difendere e promuovere la democrazia un partito che non la pratica e non la vive al suo interno? Non è un caso se un giorno sì e un giorno no gli scappa detto qualcosa che poi deve correggere, smussare, smentire, ma che in effetti tradisce il suo vero pensiero. Come sarebbe bello se la Repubblica funzionasse come il PDL, un uomo solo al comando, nelle sue mani tutti i poteri e tutto il potere, politico, economico, mediatico, niente contropoteri, niente parlamenti con le loro lentezze, niente opposizioni con le loro critiche depressive, niente magistratura indipendente, niente libera stampa e niente giornalisti scomodi. Questo Veltroni su Berlusconi. Dove andiamo? Andiamo a concludere con la rosetta del giorno. Rosa Russo Iervolino, vorrei mandare una voce al giorno della Iervolino, grande protagonista di queste giornate difficili per Napoli, che dice: io resisto, vado avanti, cerco di formare una squadra nuova e poi se non ci riesco, se non riesco a formare un nuovo esecutivo, una nuova giunta con nuove persone, vabbè, torno a fare altre cose. Certo, il più presto possibile, nell'interesse del sindaco e della città. Se questo non fosse possibile? E se questo non fosse possibile, il sindaco se ne va. Allegramente, ringraziando e rimettendosi a fare le 3.800 cose che ha sempre fatto. Bisogna aggiungere che Veltroni nella sua direzione ha anche chiamato populista il partito di Di Pietro, che si sta battagliando su una mozione che presentata da Follini, che qualcuno invita a ritirare, in cui Follini vuole esplicitamente che si rompa con Di Pietro. Questo avviene all'interno del Partito Democratico, ma ci sono tante altre notizie da commentare. L'aiuto al settore dell'auto da parte del presidente americano, quale ripercussione avrà in Europa, e varie cose ancora che avete sentito anche dai titoli dei telegiornali. Andiamo a sentire gli ascoltatori della serata da Firenze. Calogero, prego. Sì, salve, buonasera dottor Cusani. Dica. Io volevo fare due considerazioni sulle intercettazioni telefoniche. Sì. La prima è legata a quello che aveva detto il Cappellini sul ruolo un po' di prima donna che stanno avendo le intercettazioni telefoniche nei processi recentemente, no? Io credo che sia giustificato dal fatto che l'intercettazione telefonica è di per sé una prova molto potente, diciamo, cioè se io telefonicamente dico uccidi Caio è come una confessione, quindi secondo me è giustificabile questo loro ruolo da prima donna. Posto che dalle intercettazioni escono fuori cose di questo tipo, insomma. Ovviamente sì. La seconda invece è un po' un rimprovero al giornalismo, perché io ancora dopo tutto questo che abbiamo parlato delle intercettazioni non ci ho capito nulla, nel senso che sento che costino moltissimo, che in Italia ce ne sono moltissimo, però non ho mai visto, ricercando anche, un'analisi comparata fra le intercettazioni telefoniche in Italia, magari comparate alla quantità di reati che ci sono e quelli negli altri paesi. Io lavoro nella cooperazione internazionale, spesso viaggio in Africa. Sentendomi molto italiano chiedo spesso l'idea che hanno loro degli italiani e spesso mi si dice l'Italia è il paese dell'impunità, quindi mi attendo che il livello di reati che ci sia in Italia è molto alto, quindi è probabile che l'alto numero di intercettazioni sia giustificato da un alto numero di reati. No, ma certamente sì, Calogero, non c'è dubbio che c'è una differenza da questo punto di vista, come oggi scrive Gian Antonio Stella anche sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il tasso di corruzione in Italia è ancora molto alto e non è sostanzialmente cambiato rispetto al 92. La ringrazio. Raffaele da Cosenza, buonasera. Buonasera, io volevo intervenire per dissentire da quanto detto da un ospite intervenuto in trasmissione sulle intercettazioni. Lui diceva che le intercettazioni sono diventate l'unico strumento di indagine dei magistrati. Beh, sì, non è che Cappellini sì sostenesse l'idea che le intercettazioni ci sono solo le intercettazioni. Certo, le intercettazioni sono diventate una parte fondamentale delle indagini, di tutte le indagini, quelle sulla mafia, sul terrorismo, sulla camorra e anche quelle sui reati, diciamo, di altro tipo, o no? Sì, sì, d'accordissimo, non capisco perché questo dovrebbe essere un male. Se fanno emergere tanta roba, per quale motivo deve essere uno strumento che deve essere mozzato con regolamenti strani? Quindi c'è, tra altre cose, prima di intercettare... Perché, guardi, perché mi scusi Raffaele, lei dice perché se emerge tanta roba, ma bisogna vedere cosa emerge, perché le intercettazioni non ci si può limitare alle intercettazioni per iniziare un'indagine penale, è una perversione assoluta. Le intercettazioni sono una parte, insomma, Mastella è stato inchiodato, la moglie di Mastella fu inchiodata per un'intercettazione, no? E quello è un uomo morto, la ricorda lei quella frase? Sì, ricordo perfettamente. Dopodiché lei sa a che punto siamo con quel procedimento, con quel fascicolo? Ma il problema qual è? L'intercettazione? Zero. L'intercettazione o poi come viene strumentalizzata? Ma guardi che il modo in cui viene strumentalizzata è esattamente il modo in cui viene presentata dai magistrati. Cappellini faceva notare che la frase siamo un sodalizio, che non vuol dire assolutamente nulla, come lei sa bene, al contrario di quello che scrivono diversi ascoltatori, no, siamo un sodalizio vuol dire tante cose, ma cosa vuol dire siamo un sodalizio? Dal punto di vista penale non vuole dire assolutamente niente. La frase siamo un sodalizio è stata inserita nel comunicato diffuso alla stampa dei PM napoletani, che l'hanno evidenziata bene. Questo cosa significa? Che anche i magistrati, nel presentare alla stampa le inchieste, ci giocano molto sulle intercettazioni e sull'effetto che possono avere le intercettazioni, qualche frase estrapolata dalle intercettazioni, o no? D'accordo, è uno strumento nuovo che in un sacco di casi è stato strumentalizzato a dismisura, però secondo me si può imparare ad usarlo, si ricorderà dell'intercettazione della moglie di Mastella, ci ricorderà di tante altre intercettazioni che non hanno portato a nulla, lo si userà come uno strumento utile senza più andare nel sensazionalismo. Secondo me. Sì, no, ma Raffaele, io sono d'accordo con lei, cioè secondo me Berlusconi sbaglia quando vuole intervenire in maniera così drastica sulle intercettazioni. Cioè lo strumento dell'intercettazione è uno strumento che serve, ma siccome viene utilizzato in maniera perversa, anche quella per quella che viene chiamata la pesca a strascico, no? Cioè si passa un'intercettazione da una procura all'altra, si inizia un'inchiesta solamente intercettando una persona su qualsiasi cosa, insomma queste sono cose da risolvere, non per limitare il potere dei magistrati, ma per evitare tutte queste perversioni che comunque ci sono. Perché, insomma, fino adesso di prove concrete, sia sulla vicenda del Turco, sia sulla vicenda d'Alfonso, sia sulla vicenda, la stessa vicenda di Romeo, non è che ne abbiamo viste moltissime al di là delle conversazioni, o no? Lei ha capito, Raffaele, leggendo quali sono le prove a carico di... Penso che sono anch'io d'accordo con lei, cioè le intercettazioni sono uno strumento utile, mi sembra di dire, ma non devono scadere nel sensazionalismo, non devono essere abusate nel sensazionalismo. Ma non solo la questione del sensazionalismo, ma anche il modo in cui vengono utilizzate, sono cose un po' tecniche certamente, però sono importanti, perché quando poi si passa da una procura all'altra, il modo in cui è stata iniziata l'indagine di Napoli, si mette sotto controllo il telefono di una persona solamente per un'ipotesi di reato astratta, insomma quello può diventare un problema. Può diventare un problema il fatto che moltissime persone vengano ascoltate continuamente. È un problema per la democrazia o no? Ma se fossimo in Svezia sarei d'accordissimo con lei, ma siamo in Italia dove, cioè, magari mi sbaglio, ma io percepisco un paese profondamente corrotto, sì. Cioè, che esca fuori tutto quello che... Cioè, quindi sì, ma questo non autorizza a mettere sotto... Scusi Raffaele, allora secondo questo criterio prendiamo, diciamo, siccome la corruzione e alcuni fenomeni sono soprattutto al sud, diciamo che da Napoli in giù mettiamo sotto ascolto tutti i telefoni dei residenti da Napoli in giù, spenderemo un sacco di soldi e forse risolveremo qua. Ci vogliono delle regole, no? Dei criteri che tengano conto di alcuni diritti fondamentali, o no? Diritto fondamentale sicuramente è quello di non essere intercettato, diritto fondamentale anche quello di fare un concorso, per dire, sì. E di essere sicuri di essere giudicato per quello che vale. Una gara d'appalto, dice lei, oppure un concorso pubblico. Sì. Un concorso pubblico, qualsiasi cosa, sono due diritti fondamentali che si scontrano. Qua bisogna decidere. Che cosa crea più problema al momento alla democrazia? La corruzione o il diritto alla privacy? Secondo me in Italia la democrazia è maggiormente minacciata dalla corruzione che non per la mancanza di privacy. Se fossimo in Svezia sarebbe il discorso contrario. La democrazia là magari è minacciata di più dalla mancanza del non rispetto della privacy che non della corruzione. Ho capito Raffaele, la ringrazio di questo intervento. Io sono convinto che in tutte queste vicende il nodo da risolvere sia una legge sul lobby, sulla regolamentazione del rapporto tra gli imprenditori locali in questo caso e la politica, perché i rapporti devono essere trasparenti. Se il sindaco di Pescara, l'ex sindaco D'Alfonso, si vuole fare pagare i viaggi o l'autista dal suo amico Toto, persona che conosce da 20 anni, da 30 anni, essendo dello stesso paese, se li può fare anche pagare, ma questo sia comunicato ai cittadini, sia reso trasparente, anche se Toto poi ha voce in capitolo ed è interessato ad alcuni appalti del comune di Pescara. Lo si deve sapere, deve essere chiaro, trasparente, questo è quello che manca in Italia. La mozione di Follini per la rottura con Di Pietro è stata respinta. Follini chiedeva una rottura esplicita dei rapporti con l'Italia dei Valori e la direzione nazionale del PD si è opposta. Massimo D'Alema però si è astenuto. ed è stata approvata invece una mozione in cui si dice che non ci si vuole alleare con i partiti plebiscitari, con i, una cosa vaghissima. Va bene, Giancarlo da Palermo, buonasera. Buonasera a lei. Senta, allora, una cosa velocissima. A proposito di Veltroni, alla fine lui ha fatto un intervento in cui non ha detto delle cose nuove, perché sono delle cose assodate che fanno parte della storia, non è opinabile che ci sono state le leggi ad persona, ma semmai lui tardi sta tentando di fare il peppone, che poi è una figura che forse al PD mancherebbe, no? In questo momento il peppone dell'opposizione in senso positivo è Di Pietro, sì. Per cui questo è, noi vediamo tanti pepponi che alla fine gli va bene, vediamo, non faccio nomi, però diciamo in questo momento è una figura in auge. Mm. Per quanto riguarda invece un'altra cosa sulle intercettazioni, io vivo a Palermo, vivo in Sicilia, mi vorrei attenere ai fatti. Le intercettazioni fatte sul territorio, anche come diceva qualcuno a rete a strascico, hanno dato dei risultati importanti. Non sono state prese solo alghe, ma anche pesci grossi. Vogliamo rinunciarci? Credo che sia pensare a reati di 15 anni. Lei sa meglio di me cosa significa prendersi 15 anni. Deve avere fatto una strage o qualcosa del genere. Credo che questo sia proprio abbastanza, come dire, alla luce del sole, che ancora la casta un po' è scocciata a sentirsi indagata. Guardi, io a me se mi intercettassero non avrei problemi, perché capirei che è un lavoro di giustizia. Io sono pulito e buono così. Va bene, ho capito Giancarlo. 30 secondi, poi Stefano Menichini, direttore d'Europa, che già saluto. Buonasera. Buonasera a voi. Proprio quando ti sei collegato, Stefano, è arrivata la notizia di quella bocciatura della mozione di Follini sulla rottura, una mozione molto chiara, Follini la porta avanti da tempo, della rottura dell'alleanza con Di Pietro. Era uno dei nodi che forse dovevano essere chiariti in questa riunione della direzione, in realtà così non è stato. Come mai? Ma guarda, le questioni, tutte le questioni della vita, ma in particolare quelle della politica, bisogna commisurare gli esiti alle aspettative. Allora, se l'aspettativa verso la direzione democratica di oggi era di un dramma, di una palingenesi, di una grande scena di colori e tinte forti, perché il PD stava messo alla canna del gas come i partiti della Prima Repubblica nel 92 e nel 93, beh certo, diciamo, quello che vediamo e quello che leggeremo domani sui giornali non corrisponde alle attese, perché si è svolta una riunione della direzione abbastanza anormale per la politica italiana, perché si è discusso molto di politica, cosa che non capita spesso e non è che si ascolta in diretta televisiva. Non sono state prese decisioni traumatiche come l'enunciazione della rottura di un'alleanza, per motivo di prudenza, credo io, forse eccessiva, per un motivo per cui si dice anche dobbiamo prima guardare in casa nostra, i problemi che ci abbiamo noi. È chiaro però, D'Alema l'ha detto molto nettamente, ha detto proprio la frase che riporto, e che a me, che sono stato sempre con Europa, per carità, non io individualmente, molto perplesso sull'alleanza con Di Pietro, ha detto una frase che ho apprezzato molto, e cioè un asse PD Di Pietro non è una proposta di governo per l'Italia. A me questa enunciazione sta già abbastanza bene, e dovrebbe essere seguita più coerentemente, forse anche nella scelta delle alleanze locali. Certo, non è facile, perché poi quando si è scelta un'alleanza a livello nazionale, quando ci sono diverse giunte in cui l'Italia dei Valori è entrata o è dentro da tempo, non è che su due piedi poi si può decidere di rompere qualcosa, però forse è vero, la strada sembra tracciata. Io la cosa che non ho capito, per carità, poi capisco la politica e dunque bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte, in realtà Berlusconi in questi giorni sui guai del Partito Democratico è stato, sempre a modo suo, con qualche battuta eccetera eccetera, è stato abbastanza moderato, non ha infierito. Perché allora in una riunione, io ripeto, capisco la politica, bisogna certamente attaccare sempre il governo, in Italia si fa così, insomma, non illudiamoci, Berlusconi lo ha fatto in passato continuamente, Ecco, questi accenni alla questione morale, Berlusconi non si può permettere, poi non c'è democrazia nel PDL, vorrebbe un mondo, un'Italia senza la stampa, resta questo tratto di anti-berlusconismo ancora forte No, guarda, io non credo che sia anti-berlusconismo, non ho sentito toni anti-berlusconiani proprio francamente mai oggi nella discussione, ma siccome la discussione di oggi ha un interlocutore privilegiato, che sia, che piaccia o meno, è così, e non sono gli italiani, ma è l'opinione pubblica dei simpatizzanti e degli elettori, sì, del Partito Democratico, vero. Il principale lavoro che oggi i dirigenti del PD dovevano fare era risvegliare un po' di orgoglio, di capacità di riconoscersi in questo partito da parte dei suoi elettori e dei suoi simpatizzanti. Le cose che tu citi sono delle leve abbastanza elementari da questo punto di vista, un po' come chiamare alla manifestazione del Circo Massimo. Sì. L'importante secondo me non è tanto che ci siano queste frasi, che infatti non è che abbiano suscitato chissà quale scandalo nella destra oggi, non è che in questo momento Berlusconi sta stracciando le vesti perché gli è stato detto, a un certo punto ha detto, sentite anche oggi le frasi di Veltroni, sì, vabbè, ma insomma siamo nella normalità, sì, no? Sì, siamo nella normalità. L'importante quindi non sono tanto queste frasi che tu hai riportato, eccetera. L'importante è che si accompagnino a queste frasi di rassicurazione poi delle novità invece vere, concrete, cioè qualcosa che cambia davvero, perché guarda che su un punto io ho sentito un accordo quasi generalizzato, e cioè tutti quanti hanno detto il PD da quando è nato non è andato né avanti né bene, cioè non è che abbiamo fatto questo gran capolavoro di partito, i risultati sono insoddisfacenti, dobbiamo proprio cambiare registro. E quindi l'importante è capire se questo cambiare registro poi è una cosa seria o meno. Allora si poneva il problema, Veltroni prenderà i pieni poteri e quindi la cosa, l'operazione di rinnovamento sarà fatta per via plebiscitaria, dando grandi poteri al leader, oppure esattamente al contrario, nasce un comitato di salute pubblica e il segretario viene circondato dai mandarini e il partito commissariato. Com'è finita? Nell'una e nell'altra, nell'una e nell'altra, nel senso che è finita però come titoleremo noi domani Europa, e cioè che il Partito Democratico bis, diciamo nella sua ripartenza, riavvio, come ha detto oggi D'Alema, rimane di Veltroni o guidato da Veltroni, ma sarà certo molto meno veltroniano di quanto non lo si voleva prima. Senti, una curiosità, voglio sapere che ne pensi, fino a dove il Partito Democratico si può spingere sulle proposte di Berlusconi sulla giustizia, posto che poi andranno avanti anche quelle, perché bisogna vedere la ripresa, se saranno considerate una priorità da Berlusconi o solamente uno strumento, come dire, di polemica, propagandistico, eccetera. Sì, appunto, guarda, questo è un problema perché diciamo, non si capisce mai quando si parla di giustizia fino a che punto c'è l'intenzione di fare davvero le cose che si dicono o fino a che punto vengono tirate fuori soltanto per mettere in difficoltà gli interlocutori. E visto che il governo non ha messo per iscritto nessuna delle riforme, grandi o piccole, che aveva annunciato, e questo capisci bene che sì, è abbastanza un problema. Comunque sia, io oggi abbiamo scritto su Europa, abbiamo invitato il PD a fidarsi e ad affidarsi alle parole di Napolitano, e cioè ad avere il coraggio, casomai anche di sfidare, in un momento difficilissimo, bada bene, perché stai sotto il mirino delle procure, indagini, eccetera, di sfidare anche la tua opinione pubblica, che guarda con enorme diffidenza qualsiasi tipo di dialogo col governo, e aprire questo tavolo nell'interesse dei cittadini che dalla giustizia francamente ricevono un servizio molto inadeguato in questo momento, come è noto. Tu mi chiedi se la faranno veramente. Io credo che mi sembra che l'intendimento ci sia. La garanzia di Napolitano, che è, diciamo così, non è per carità un'espressione di un partito, ma è un uomo di quella storia. La garanzia di Napolitano c'è e verrà e conterà molto, e Napolitano la farà contare. Quello che c'è da vedere è se poi parliamo di mettere il bavaglio alle inchieste oppure di razionalizzare il sistema di giustizia in Italia. La prima cosa il PD non se la può permettere perché non è d'accordo e perché certo non se la può permettere in questo momento. Sì. La seconda cosa è necessaria. Allora, un'ultimissima cosa riguarda diversi ascoltatori anche del PD ci hanno scritto mail, cose un po' sconcertati da questa vicenda di Margiotta, su cui invece il Partito Democratico in maniera compatta ha votato contro l'arresto di Margiotta. Come si può spiegare una cosa di questo tipo? Ma si può spiegare perché i cittadini, gli ascoltatori vostri, in generale l'opinione, insomma, deve anche un po' considerare, alla fine, per carità, io capisco la casta e tutte quante le cose sacrosante che si dicono, però questi magistrati, questo Woodcock ha presentato al Parlamento una richiesta di arresto sostenuta da quello che dicono persone dalla moralità, diciamo, francamente indiscutibile, cioè una persona come Castagnetti, una persona mite, certo non è un privilegiato. Non ci sta niente, cioè elementi di non dico di prova, ma di indizi pochissimo consistenti. Ora, perché sulla base di cose... Poi non è che si blocca l'inchiesta, si nega l'arresto. Sì, non è... Perché sulla base di un sospetto che non è supportato da nessuna prova si deve autorizzare l'arresto di una persona? Ma va bene che Di Pietro, che ieri ha fatto tutto questo numero su Margiotta dicendo vergogna, il Parlamento sì, protegge sì. Un suo partito, oggi nella giunta per le autorizzazioni che si è riunita oggi ci sono stati 9 casi di diverso tipo di richieste di magistrati verso parlamentari per cose molto varie, reati comuni, diffamazione, cose. Ma Di Pietro non è che ha dato per tutto l'Italia dei Valori là dentro nella giunta, non è che ha dato autorizzazioni per tutti, no, alcuni sono state negate perché non c'erano abbastanza prove. Io ho l'impressione che Di Pietro, e l'opinione pubblica purtroppo si fa un po' incantare su questo, che Di Pietro fa la voce grossa sulle cose che hanno comunicativamente e mediaticamente un grande effetto, e poi sul resto, diciamo, sta più tranquillo, via, è un po' più normale, via. Bene, grazie Stefano, grazie a presto. Voi, buona serata. Stefano Merichini, direttore d'Europa, Filippo Reggio Calabria, buonasera. Buonasera, grazie. Dica pure. Vorrei subito riagganciarmi a questa riflessione di Menichini. Sì, anche se sentiamo molto male perché lei ha la radio accesa. E io la spengo subito. Grazie. Allora, credo senz'altro intanto che c'è una posizione da parte dell'onorevole Di Pietro che lucra in un certo senso le difficoltà momentanee del Partito Democratico, perché non si riesce a capire se fino all'altro giorno ha avuto i suoi rappresentanti in tutte le giunte della campagna, adesso tu corri, io non faccio più parte delle giunte, tiro fuori i miei uomini. Sì. E i suoi uomini cosa facevano? Guardavano, stavano lì a vedere oppure... Ma non solo della campagna, anche in Basilicata. Sì. Sulla questione delle intercettazioni telefoniche, le sue riflessioni, dottor Cruciani, sono assolutamente notevoli, però io starei attento, perché proprio parlando da Reggio Calabria, come prima il signore Palermo, in questo momento a Reggio Calabria la procura è diretta da... personalmente ritengo un grande magistrato che si chiama Giuseppe Pignatone, certo. È stato titolare di un'inchiesta molto e questa delicata. È una sicurezza assoluta il fatto che la procura di Reggio Calabria, al contrario di qualche altro personaggio del passato, sia retta da Giuseppe Pignatone. Io sono molto fiducioso nella professionalità di questa persona. E volevo dire, ma lì a Palermo il procuratore Pignatone fece un'azione certosina di taglio, soprattutto anche per quel che siamo riusciti a capire per la vicenda Cuffaro della sanità. Ecco, ci sono naturalmente delle questioni. Molto spesso, come diceva lei, ed è indubbio, si sbattono, come dire, sulle pagine dei giornali anche rapporti privati. Per esempio, la famosa telefonata tra Berlusconi e Sacca, che si parlava di una signora che pretendeva di avere una parte, voglio dire, alla fine non è ma non, è solo, non cose... è solo questo, è anche il fatto che oggettivamente alcune inchieste vengono portate avanti partendo dall'intercettazione a tappeto di diverse utenze telefoniche, solamente da quello. Beh, che anche in questi giorni, voglio dire, anche nel caso di Pescara, il GIP, no? Molto spesso può anche fare un lavoro di selezione, può anche invitare a restituire la richiesta di custodia cautelare in carcere al pubblico ministero dicendo secondo me non è suffragata sufficientemente per leggere la prova in dibattimento. Voglio dire, non è possibile che ci sia un appeasement da parte del giudice terzo rispetto al lavoro del Bene, la devo interrompere perché ci sono i TG, un ascoltatore mi scrive, oltre a Castagnetti lo dice anche l'onorevole Maurizio Turco, che è un onorevole radicale all'interno del Partito Democratico, in quelle pagine non c'è nemmeno una parvenza di reato, cioè quelle che riguardano Margiotta. TG5. Veltroni sferza il partito, dobbiamo innovare e reagire, altrimenti falliremo, ma non scarica Di Pietro, D'Alema, il PD, un'amalgama mal riuscito. A Napoli gli assessori agli arresti domiciliari per gli appalti pubblici negano ogni responsabilità. Nel mirino dei magistrati i rapporti tra Romeo e la Regione. Berlusconi, la riforma della giustizia è pronta e sarà presentata dopo Natale. Confronto con l'opposizione in Parlamento, ma non credo si possa fare niente insieme. Calano le bollette di luce e gas. Dal 1 gennaio diminuiranno rispettivamente del 5,1% e dell'1%. Per le famiglie risparmio di 36 euro all'anno. Dopo il no del Senato al salvataggio, Chrysler, General Motors e Ford avranno dal governo 17,4 miliardi di dollari per resistere fino a marzo. Bush da irresponsabili far fallire Detroit. Obama, passo necessario. Con la chiusura delle prime scuole al via le vacanze natalizie, un italiano su 7 in partenza. Gli esperti meteo annunciano bel tempo fino a martedì, ma sarà un Natale freddo. Bene, bene. Le intercettazioni, specie quelle ambientali, sono l'unico strumento investigativo efficace. Va riveduta la gestione dei dati, ci scrive Fabio, esperto da Roma. Andiamo a sentire anche i titoli del TG1. Appello di Veltroni alla direzione del PD. Innoviamo o saremo travolti. Non c'è posto per i disonesti. I giudici procedano, ma con responsabilità. Berlusconi, riforma della giustizia pronta, ma con questo PD non si può far niente. Fini, Villari si dimetta o sia revocato. Crisi auto, dal governo americano aiuti per oltre 17 miliardi. In Italia a ottobre crollano fatturato e ordini dell'industria. Da gennaio calano luce e gas, risparmio di 36 euro all'anno, effetto del petrolio meno caro. Il ministro Scajola, sollievo per le famiglie. E Luana, nessuno sa se soffrirebbe. Il presidente degli anestesisti Gattinoni spiega cosa potrebbe accaderle senza alimentazione. Giulia Quintavalle, Alex Del Piero, i vostri atleti dell'anno votati sul sito del TG1. La nascita di mio figlio, dice il campione juventino, mi ha fatto volare. Bene, fra poco anche la 7. Intanto andiamo a Milano da Federico. Buonasera. Sì, buonasera. Io volevo... Sento gli uccellini che... Ah, no, dietro. No, niente. Era un cassetto. Niente, io volevo chiedervi se, secondo voi, perché condivido abbastanza le vostre osservazioni sull'inconsistenza di questa indagine, però... No, io non ho parlato di indagine inconsistente, quella di Napoli... Sintetizzo molto. Beh, insomma, sì, lei sbaglia sintetizzando, però, perché, ripeto, parlavamo dell'uso in alcuni casi delle intercettazioni come unico strumento di indagine, abbiamo parlato di rapporti tra imprenditori e politici locali che vanno resi più trasparenti, poi le ipotesi dell'associazione a delinquere, corruzione, concussione, vedremo naturalmente, e secondo me si potrebbe discutere anche sugli arresti in questa fase, ma insomma, sarebbe un ulteriore discorso, per cui non ho parlato di inchieste inconsistenti. L'ho sintetizzato male, comunque insomma, condividevo quello che dicevate, però mi domando e vi domando se secondo voi, se le strade delle nostre città fossero pulite, avessimo asili nido, scuole efficienti, ospedali efficienti, servizi pubblici efficienti, se ci sarebbero tanti giustizialisti, così, perché voglio dire, non pensiate che in Germania, quando hanno trasferito la capitale da Bonn a Berlino, non ci abbiano mangiato i politici tedeschi, però poi il tedesco al mattino in un'ora di punta sale sul tram e trova da sedersi, c'è anche ci va in bicicletta sul tram, suo figlio va in bicicletta a scuola perché ci sono le piste ciclabili, trova una scuola ben dotata, efficiente, quando si ammala viene curato. E quindi se anche poi i suoi politici si prendono il 5 o l'8% di stecche, probabilmente più incline a chiudere un occhio. Sì, Federico, lei torna a uno dei temi principali poi di queste cose, perché di queste vicende anche giudiziarie di questi giorni, perché la realtà è che sia a Roma che a Napoli, per esempio, sulla manutenzione delle strade, evidentemente si è aspettato troppo, le cose sono andate alle lunghe, i ricorsi, appalti farraginosi dal punto di vista burocratico e amministrativo, e intanto certamente la manutenzione delle strade non era fatta bene. La ringrazio. Claudio, provincia di Lucca, buonasera. Sì, buonasera, santi saluti a lei e a tutti gli ascoltatori. Uscendo dall'ufficio ho guardato internet, la rassegna stampa, e ho visto che c'è un'indagine, anche stanno indagando perlomeno i giudici romani per quanto riguarda sia Veltroni che Rutelli, perché il sistema Romeo, oltre che a Napoli, era anche a Roma. Sì, guardi, le carte pare che a Roma non siano ancora arrivate, per cui non esiste un'indagine da questo punto comunque di vista. Comunque ecco, invece in riferimento al, al discorso delle, delle intercettazioni, volevo dire questo: i due giornalisti che sono intervenuti prima dicevano che sulle intercettazioni si capiva poco, si leggeva male, non si riusciva a capire, ma il sistema Romeo che è in Toscana, io parlo della Toscana, invece che sistema Romeo è sistema consorzio e senza dichiarare in tutta la sua lunghezza qual è un consorzio di cooperative rosse che riguardano l'edilizia, sono sistemi che sono sotto gli occhi di tutti, cioè i magistrati secondo me non avevano bisogno delle intercettazioni. Cioè lei dice che imprenditori dominanti in varie zone d'Italia esistono, sono una realtà, sono sotto gli occhi di tutti, di tutti quelli che lavorano nel settore, di tutti quelli che si trovano coinvolti a vario titolo. Sì, diciamo che l'indagine di Napoli però va oltre i rapporti che ci sono tra Romeo e i singoli assessori o politici locali, i quali, secondo le accuse sempre, avrebbero disegnato appalti o dato informazioni che non dovevano dare. Insomma, non c'è solamente un rapporto e basta, c'è un rapporto che ha portato poi nella costruzione dell'appalto, nella lunga costruzione dell'appalto, eccetera, a disegnare questo appalto in modo da favorire e da consentire a Romeo di vincerlo. Insomma, di questo si tratta. Ma io di questo stavo parlando. E la stessa cosa, secondo lei, avviene su altri fronti, in altre regioni, nello stesso modo? Quando in Toscana si sa che per accedere a una certa asta, a una certa appalto, si sa già chi ha vinto, questo voglio dire... Sono sicuro, a maggior ragione penso che il problema da risolvere da questo punto di vista, al netto naturalmente dei passaggi di denaro, che peraltro... Ma io non so se ci sono... Dei favori, eccetera, eccetera. Il problema è appunto il rapporto... I viaggi pagati, certo. Del genere. È chiaro che questo... Non sempre la corruzione avviene tramite la transitazione di denaro. Avviene in altre... Cioè tutto no, ma certo, Claudio, io dico che tutto questo va reso più trasparente, cioè fa parte anche della politica la mediazione fra interessi. Non esiste in Italia una regolazione, una legge sulle lobby, il modo in cui possono agire, e dunque a un certo punto nella complessità dei procedimenti interviene la magistratura. La 7, sentiamo i titoli. La bufera giudiziaria s'allunga sul Campidoglio, i giudici di Napoli trasferiscono atti alla procura della capitale, scrivono: l'imprenditore Romeo mirava anche alla gestione illecita del patrimonio del comune di Roma. Tesa direzione PD sulla questione morale, Veltroni: via i corrotti o saremo travolti, D'Alema l'attacco, siamo per l'appunto un amalgama mal riuscito. Negli Stati Uniti il governo federale scavalca il Senato e concede un prestito straordinario di 17 miliardi di dollari alle grandi industrie automobilistiche di Detroit. Non possiamo farle fallire, da marzo ci penserà Obama, dice Bush. Nel 72 svelò al Washington Post lo scandalo del Watergate e provocò le dimissioni del presidente Nixon. Mark Felt, ex numero 2 dell'FBI, è morto a 95 anni. Carl Bernstein e Bob Woodward, i cronisti del Washington Post, che raccolsero le sue confidenze, lo chiamavano gola profonda. E da ultimo, nei quarti di Champions, sfide inglesi per le italiane: Inter-Manchester, Roma-Arsenal e Juventus-Chelsea. Mourinho. Bene, questi titoli della 7. Andiamo a Milano da Francesco. Buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Io volevo intervenire sulla questione PD, sull'intervento in direzione da parte di Veltroni. Sì. Io sono il solito assessore targato PD che chiamò l'altra sera anche per criticare Rutelli per l'attacco ad Alemanno. È una situazione veramente... Prima, la scuola di partito con docente Roberto Saviano, un grandissimo rispetto per lo scrittore Roberto Saviano, ma che c'entra? Non riesco a capire. La dichiarazione di Veltroni: non c'è spazio per i disonesti nel partito, ci mancherebbe altro, è una frase assolutamente scontata, ma mi pare che Veltroni, che si dichiara di non essere mai stato comunista, ma penso ricordi la frase di Marx che la storia si presenta una prima volta come tragedia e la seconda come farsa, questa sua dichiarazione ricorda molto da vicino quella che fece Craxi dando del Mariuolo all'indirizzo del famoso Mario Chiesa dopo il 17 febbraio 1992. I protagonisti sono sempre gli stessi, perché in prima fila e con un primo posto in prima fila ancora nella storia italiana dopo 16 anni vediamo ancora Antonio Di Pietro. Io penso che ormai sia il caso che si esca, che la politica italiana esca da una spaventosa e grandissima ipocrisia a cui lei ha accennato poc'anzi, che è quello di metterci d'accordo definitivamente che il finanziamento della politica è una cosa che esiste e bisognerebbe stabilire una volta per tutte che il problema è quello eventualmente di non dichiarare quello che diceva lei poc'anzi, cioè l'unica proposta che si può fare è quella di consentire alla politica di finanziarsi e il reato sia non dichiararlo, non dichiarare che il Partito Democratico e il Partito Socialista o il Partito prenda finanziamenti da parte. Sì, Francesco, in questo caso, tra l'altro, pare che non, sì, forse nel caso di D'Alfonso c'è una, ci sono, ci sarebbero poi delle dazioni di denaro per finanziare la campagna elettorale del 2006 e altre cose di questo tipo. Non sembra un problema di finanziamento dei partiti, ma di piccoli favori personali che secondo me andrebbero resi trasparenti, punto. La ringrazio, andiamo a Torino da Massimo, buonasera. Sì, buonasera dottor Cucciani, buonasera. Dica. Senta, due concetti, due mie considerazioni veloci, spero di non rubare troppo tempo. La prima era sull'intervento di Veltroni che avete fatto ascoltare poco fa, quasi come fosse in risposta a Berlusconi. Personalmente io sono un elettore, secondariamente sono un elettore di centrodestra. Secondo me, a me spiace quando si sentono queste cose e si continuano a sentire, perché io come elettore di centrodestra ho comunque bisogno di avere un centro-sinistra importante e forte con delle alternative e delle proposte. Stanno però sbagliando, secondo me, nel marketing. Quello che fa Veltroni dalla campagna elettorale, quando non nominava il nome del suo avversario per distinguersi, probabilmente, o le affermazioni che ho sentito poc'anzi, non accettiamo delle lezioni da chi è colluso, basta. Cioè, io sono stanco di sentire Berlusconi, non si devono più concentrare su Berlusconi. Lo so Massimo, io sono d'accordo con lei, però ci ha spiegato prima Menichini che queste cose servono a tenere gli elettori, dunque lo zoccolo duro di elettori che insomma è anti-berlusconiano e che vuole sentire parole di questo tipo. Cosa le devo dire? La politica italiana è fatta in questo modo. Qualche ascoltatore poco fa ci chiedeva se le inchieste di Napoli avranno delle ripercussioni anche a Roma, perché c'è una storia che riguarda l'imprenditore Romeo e la capitale. Ce la facciamo raccontare dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, che è legale della Manital. Buonasera. Buonasera a voi. Cos'è la Manital? È un'azienda che si occupa di cosa? Un'azienda che si occupa in particolare, per quello che ci interessa in questa vicenda, di manutenzione stradale, quindi di gestione del patrimonio stradale, di manutenzione per conto dei comuni o delle province, degli enti locali del patrimonio stradale. In quali zone opera principalmente? Ma è in tutta Italia, servizi, in particolare svolge il servizio di Pisa, devo dire, e quella è la prova provata, senza contestazioni di alcun tipo, che questo tipo di appalto si può gestire in modo proficuo, corretto e con vantaggio per i cittadini. Allora, cosa succede? Succede che il 30 novembre del 2006 viene affidato un appalto molto importante, si aprono le buste di una gara per la manutenzione delle strade di Roma, un appalto di 500 milioni? No, credo di 700, circa 700. 700 milioni di euro. Per la manutenzione delle strade del comune di Roma. Questo appalto viene vinto dall'azienda di Romeo, giusto? Sì. A questo punto la Manital fa ricorso, per quale motivo? Sì, perché da Manital aveva pure... C'erano solo due concorrenti? No, c'erano più concorrenti, Manital aveva già superato... C'erano più concorrenti, devo dire, i concorrenti più accorsati nel settore erano proprio Manital e Romeo. Sì. Anzi, già possiamo accennare a un tema: Romeo per debita vantava maggiore esperienza nella gestione immobiliare e non della manutenzione stradale, sì. Però l'appalto, per come era fatto al Comune di Roma, permetteva anche a Romeo, come mero gestore di immobili e non di strade, di partecipare lo stesso a questo tipo, sì, di appalto. Peraltro durante la gara Manital aveva già subito un atto, diciamo, di oggettiva ostilità, perché era stata esclusa per una ragione formale, avevamo dovuto fare una causa al TAR che ci è stata accolta con sentenza passata in giudicato, e grazie a questo finalmente eravamo riusciti a partecipare alla gara. Vince Romeo e voi fate ricorso, per quale motivo? Noi facciamo ricorso per tre motivi. primo luogo denunciamo il cosiddetto conflitto di interessi, ovvero denunciamo il fatto che nella squadra allestita da Romeo per partecipare a questa gara c'era anche un imprenditore che aveva fatto parte della società, del consiglio di amministrazione della società Risorse per Roma, che è l'ente pubblico che aveva predisposto gli atti e il bando di gara. Noi sul punto affermavamo un principio che ci sembra di particolare civiltà giuridica e vorrei dire sociale ancora prima. Dicevamo, a prescindere dal fatto se ciò ha comportato un concreto vantaggio per Romeo e per i suoi soci, ciò che rileva è un principio di precauzione, cioè l'amministrazione e la trasparenza amministrativa si garantisce e il malcostume si evita se si evitano proprio le occasioni che questo si verifica. E questo è uno dei motivi, poi? Questo era un motivo. L'altro motivo, diciamo, che si articolava poi in due motivi, era la mancanza di referenze bancarie come richiesto dal banco. Va bene, insomma, voi questo ricorso a un certo punto lo vincete. Diciamo sia al TAR che che davanti all'autorità di vigilanza dei lavori pubblici. Ricorso poi, questo fa capire insomma un po' anche come vanno certamente gli appalti in Italia, la farraginosità della procedura, ricorsi, contro ricorsi, per carità, pur sempre nella legittimità del vostro ricorso, Romeo fa un contro ricorso, chiamiamolo così, al Consiglio di Stato. Che succede al Consiglio di Stato? Poi su questo si innesta, mi scusi, apro una parentesi, su questo si innesta poi forse questa indagine della magistratura, perché pare che ci sia stato un intervento da parte della politica su un giudice del Consiglio di Stato. Il ricorso al Consiglio di Stato come finisce? Stiamo all'oggettività dei fatti. Il Consiglio di Stato, innanzitutto, non è vero che ha mai detto che l'aggiudicazione a Romeo era legittima. Il Consiglio di Stato, per un aspetto processuale e formale che atteneva alla posizione di Manital, non dice è legittima l'aggiudicazione a Romeo, ma si limita a dire tu Manital non potevi fare ricorso e quindi con una pronuncia solo processuale non si occupa dell'aggiudicazione a Romeo. Incidentalmente esprime qualche dubbio sul conflitto di interessi, restano fermi gli altri motivi. Tanto è vero che il TAR in successive sentenze ha di nuovo ripetuto che Romeo doveva essere escluso. Comunque, in ogni caso, il Consiglio di Stato cosa decide? Di sostanzialmente di dare via libera di nuovo a Romeo. Dal punto di vista formale sì, dal punto di vista sostanziale no, tanto è vero che anche sulla base delle nostre diffide il Comune da un lato non revoca come invece avrebbe dovuto fare l'aggiudicazione a Romeo, ma dall'altro nemmeno stipula il contratto, sicché era in qualche modo percepito che qualcosa in questa aggiudicazione non andava. E perché allora poi successivamente il sindaco Lemanno ha revocato? Che cos'è che ha revocato? Quando arriva la nuova giunta, finalmente, dico io, Alemanno, anche a seguito credo delle nostre diffide che avrà trovato sul suo tavolo, ha deciso di revocare. Devo dire per il momento solo sulla carta, perché io ho studio in corso del Rinascimento, se percorro via Nazionale trovo l'impresa di Romeo che ancora lavora, quindi ha annunciato di revocare. Noi ci auguriamo che a questo punto la revoca venga fatta per tutti i motivi che più volte abbiamo denunciato, oltre che per gli inadempimenti che so che il Comune ha denunciato a carico di Romeo in questa fase di affidamento provvisorio. Senta, le chiedo una cosa, questo è il percorso molto complicato, naturalmente che lei però ci ha riassunto in maniera egregia, le chiedo un'altra cosa, è credibile secondo lei che ci sia stata una pressione, come si dice, su uno dei giudici del Consiglio di Stato per dare il via libera a Romeo o no? Guardi, i magistrati di cui ho letto e ho sentito fare i nomi sui giornali sono magistrati di cui io apprezzo e ho grande stima, avrei io gioco facile, visto che la sentenza non è stata a noi favorevole, a cavalcare questa tigre in qualche modo giustizialista. Secondo me bisogna stare, è sufficiente fermarsi molto prima. La giustizia amministrativa nel suo complesso ha dato più volte il segnale che l'aggiudicazione a Romeo era illegittima, sia pur con queste incertezze che abbiamo prima di assunto. La politica che avesse voluto ascoltare, l'amministrazione che avesse voluto ascoltare, aveva quindi tutti gli elementi per porre rimedio molto prima che intervenisse il giudice penale. Avvocato, la ringrazio, buona serata. A lei, arrivederci. 20 e 26, Andrea da Roma. Prego Andrea, mi sente? Sì, buonasera. Sì, la sento benissimo. Dica. Dunque, io volevo intervenire perché il discorso delle intercettazioni lo sento ormai da tempo e veramente mi lascia molto perplesso. Sì, torna periodicamente, devo dire, e poi in realtà poi concretamente non si fa nulla, non c'è una proposta di legge concreta. Adesso Berlusconi sembra che si sia deciso e dunque ci sarà più materia di cui discutere da gennaio in poi. Sì, io intervenivo perché mi occupo di intercettazioni per lavoro, quindi comunque facendo il poliziotto, lavorando in ambito giudiziario, ne ho fatte tantissime, spero di continuare a farle per il lavoro che faccio. Sì, in che ambito? Tutti gli ambiti, tutti i possibili reati oppure qualche reato specifico? Allora, il problema è questo, già è appunto garantista la nostra legge, perché comunque non è così facile accedere alle intercettazioni. Accedere che significa? Farle? Accedere, ottenere il permesso per poterle fare, perché comunque è la polizia giudiziaria che lo chiede al pubblico ministero che è in mano l'indagine, il quale poi è autorizzato da un altro giudice che è il GIP, che dice sì, ok, ci sono elementi sufficienti per darle. Quindi, non mi sembra però che vengano, mi scusi Andrea, da questo punto di vista non mi sembra che, che ci siano dei no, perché in Italia c'è un numero enorme di intercettazioni telefoniche, insomma l'autorizzazione viene data abbastanza spesso, o no? Allora, vi dico per esperienza personale e pluriventennale che non è così semplice. È chiaro che una volta che lei ottiene delle intercettazioni, cioè io ottengo l'intercettazione sul suo numero personale e lei poi è un po' come la catena di Sant'Antonio, conosce tanta gente, quindi comunque magari qualcuno viene ascoltato perché non è direttamente intercettato, ma perché è coinvolto nel suo telefono. Ora, di tutte le intercettazioni, delle migliaia che si fanno in Italia, nessuno parla mai, perché comunque nessuno mai ne parla. Stranamente quando comunque colpiscono alcuni determinati personaggi, viene una ribalta la cosa. È chiaro che il problema, come diceva un altro ascoltatore, è molto giusto, è quello della gestione di questi dati, perché comunque la loro riservatezza è assoluta. Evidentemente questi dati escono quando toccano persone importanti, comunque persone che hanno un... Beh sa, in questo caso escono allegate all'ordinanza di custodia cautelare e dunque escono perché i magistrati le inseriscono all'interno delle ordinanze. Certo, questo è evidente. Sì, in maniera legittima, naturalmente per provare l'impianto accusatorio, insomma. Esatto. Ora consideri che però è uno strumento fondamentale per la polizia giudiziaria, perché in situazioni complesse come può essere quella di Napoli o tante altre, comunque dove generalmente esiste un'associazione, è uno strumento che è importantissimo e riesce a portare a volte al bando della matassa. Toglierlo, limitarlo ancora più di quanto lo sia adesso, secondo me è una cosa negativa per comunque lo svolgimento di indagini, ripeto, non è che devono essere forse indagini contro politici. Ho capito, certo. Reati. È enorme in Italia, quindi non si può fare per salvaguardare un aspetto, diciamo, di pubblico, una indirezione poi su tutto. Andiamo a sentire i titoli del TG2. Veltroni al Partito Democratico, o innovazione o fallimento, fuori disonesti, ma non accettiamo da Berlusconi lezioni di moralità. D'Alema dice il PD per ora una fusione mal riuscita. La replica di Berlusconi a Veltroni, impossibile il dialogo con questa sinistra, pronta alla riforma della giustizia, se ci sono suggerimenti utili li accoglieremo. Bollette più leggere dal 1 gennaio, per la luce un calo del 5%, per il gas dell'1%, il risparmio 36 euro a famiglia. Crisi auto, intervento di Bush per salvare General Motors e Chrysler, aiuti per quasi 14 miliardi di dollari, reagiscono bene, le borse riducono il calo. Il sorteggio degli ottavi finali di Champions mette a confronto Italia-Inghilterra, Chelsea-Juventus. Bene, 20:35, allora completiamo con Andrea da Roma sulle intercettazioni. Andrea. Sì, quindi in sostanza, dicevo, è uno strumento troppo importante per la polizia perché venga ancora più stretto. Certo. Lei non è d'accordo sul fatto, per esempio, di limitare le intercettazioni ai reati con pene superiori ai 15 anni? Ma il discorso del relativo alla pena è un po' fuori la mia portata, insomma, che non è di quello che devo parlare io. Quello che posso dire io è che è uno strumento che consente di arrivare a trovare degli elementi di prova utili, importanti, o quantomeno dai quali poi poter proseguire per raccogliere nuovi elementi probatori che abbiano un certo peso, al di là dell'entità della pena. Quindi è previsto generalmente per reati di una certa gravità o comunque per reati per i quali ha senso. Un'altra cosa volevo chiederle, lei non ha impressione, una delle critiche che vengono fatte alla gestione delle intercettazioni negli ultimi tempi, che anche solo per iniziare un'indagine si facciano intercettazioni a tappeto su un'utenza, su diverse utenze, naturalmente partendo da un'ipotesi di reato che può essere però molto vaga all'inizio, no? No, non sono assolutamente d'accordo, perché comunque è proprio la struttura stessa che ti porta a chiedere le intercettazioni che parte con un presupposto diverso, cioè c'è già a monte un'indagine, perché comunque va formulata un'ipotesi di reato. Formulare un'ipotesi di reato non significa, secondo me, forse sono colpevoli di questo, significa avere altri elementi che comunque ti portano alla necessità di ulteriori strumenti per diciamo così, confermare quell'ipotesi che c'è a monte. Ripeto, non è la polizia giudiziaria che dice domani intercetta e domani intercetta. Lo chiede al suo pubblico ministero, al giudice con il quale lavora, portando degli elementi probatori. Sì, nel caso in cui sia la polizia giudiziaria, poi c'è anche il caso in cui le intercettazioni vengono chieste dai magistrati direttamente, cioè, no? Beh, oddio. No, vengono chieste dai magistrati e passano poi attraverso la polizia giudiziaria, certamente. Cioè, il magistrato si rende conto dell'importanza di una cosa o di un'ipotesi di reato e poi chiede. Ma guardi, forse credo che in alcuni casi possa accadere, ma sinceramente nella mia carriera non mi è mai successo che un magistrato mi abbia chiesto delle intercettazioni come polizia giudiziaria, cioè nel senso che sono io che curo le indagini che lui dirige, ovviamente, però ovviamente lui fa un lavoro di direzione che non è quello sul territorio, diciamo, non è sulla strada. L'operaio è il poliziotto che lavora e trova delle informazioni o degli elementi che porta al giudice che valuta. A sua volta quel giudice che valuta non ha il potere di decidere l'intercettazione, lo chiede a un altro giudice di garanzia. Sì, sì, no, ma quello nel caso in cui la notizia di reato venga dalla polizia giudiziaria. Ringrazio Andrea. Prego. Andiamo a Trento, Sara. Sì, buonasera signor Cruciani. Dica. Senta, possiamo fare una piccola fiction? Due secondi. No, guardi, sulle fiction Berlusconi si è già arrabbiato con Santoro pochi minuti fa. No, no, ma la perché ha detto lei. Che è intollerabile il fatto che ci sia una fiction come quella che è andata in onda ieri ad Anno Zero. Ma lasciamo perdere questo. Che vuole dire? Allora, io sono un'imprenditrice e lei è un politico. Sì. Allora, io devo imprendere, sicché devo guadagnare soldi. Devi intraprendere. Sì o no? Lei è un politico e deve avere la questione morale, no? Deve tutelare tutta Italia o quelli che l'hanno eletta. Sì. Se io vengo a fargli una proposta e lei l'accetta, chi è il più delinquente di noi due? Dipende che proposta è. Scusi, se io le faccio una proposta di dargli 500.000 euro per un cantiere di 5 milioni di euro, è naturale che lei è più delinquente di me, perché io i 5 sì, milioni Sara, di euro... è evidente, lei ha fatto un'ipotesi molto chiara, per far passare un appalto ti do dei soldi, ma su questo non c'è discussione, che c'entra? No, ma quello che c'entra è che tra me che sono imprenditore e io imprendo e che devo guadagnare soldi, e lei che è un politico che deve avere la questione morale, tra me e lei il più delinquente è lei che è un politico. Sì, d'accordo, però la ringrazio Sara di questa fiction, di questa mini fiction, ma mi sembra che non arriviamo a nulla, però almeno secondo quello che io penso, il rapporto tra me e lei, tra io politico e lei imprenditrice che intraprende, deve essere un rapporto reso trasparente. Trasparente non significa che bisogna rendere trasparente la mazzetta. Gianni da Mantova, buonasera. Sì, buonasera. Senti, dica. Io volevo intervenire nella militanza di base del PD su alcune questioni che attengono, che sono all'ordine del giorno in questo momento. Io ritengo che ho potuto verificare anch'io che in molti casi, o in alcuni casi, alcuni personaggi, alcuni assessori, alcuni amministratori, come dire, hanno assunto un potere propositato, che tra l'altro era direttamente proporzionale all'incapacità o alla scarsa autorevolezza poi del partito in quelle realtà locali, perché io dubito, come dire, la commissione in quel caso era tale che, come dire, non vi erano sorte forme di controllo, tenendo conto che l'autonomia è assoluta. Tuttavia credo che la necessità di Veltroni sia quella di rimettere in piedi un partito estremamente autorevole. Non so se poi si rendono conto dello slabbramento che c'è sostanzialmente determinato nel paese, per cui... Sì, però io su questo slabbramento, su questo io non sono molto d'accordo. Non è che deriva da un rapporto malsano con gli imprenditori locali, deriva dal fatto che evidentemente alcune cose alla regione Campania o alla regione o al comune di Napoli non sono state fatte da parte della giunta. Non è che deriva dalla questione morale. La stessa cosa a Firenze, io non credo che l'autorevolezza o il consenso della giunta Domenici sia adesso inferiore perché si è scoperto che una parte della giunta voleva costruire lo stadio diminuendo l'ampiezza del parco nella zona di Ligresti. Qui bisogna andarci molto cauti con le considerazioni sul slabbramento del Partito Democratico rispetto alla sua gente, rispetto all'elettorato. Non scordiamoci che la Iervolino è stata rieletta sindaco con un ampio consenso non nel 2000 o nel 95 o nel 90, ma nel 2006. Dobbiamo chiudere perché siamo già in ritardo. Allora Gianni, per completare il suo intervento, insieme ad Agostino da Milano, Angelo da Milano e Anna da Salerno, che erano in onda, ci sentiamo lunedì in diretta, lunedì è il 22 di dicembre, sempre alle 18:30.